Allora partiamo. Ti siedi sul bordo della seggiola, piedi e ginocchia larghi come il bacino, le mani appoggiate sulle cosce e comincia lentamente a guardare verso il soffitto. E ritorna. E man mano che guardi verso il soffitto, osserva se ci sono delle altre parti che muovi oltre agli occhi e alla testa. Adesso comincia lentamente a guardare verso il basso e poi torni a guardare avanti. In linea di massima, adesso visto che poi questa registrazione serve anche ad altri, quando hai bisogno ti riposi. Ora, siccome si fa sulla seggiola e tu non hai lo schienale qua, quando hai bisogno di riposo, senza che te lo dico io, ti sdrai. Che la seggiola può andare indietro e appoggiarsi allo schienale e continua a guardare in basso e poi torna a guardare avanti. E osserva se respiri e osserva se senti il movimento in altre parti del corpo. Ricorda che il movimento di una parte è il pretesto pian piano per far muovere, per scongelare tutto. Di nuovo guarda verso il soffitto e osserva se riesce ad andare, guardare più in su o se vuole prima. No, guarda avanti e in su un po' di volte, poi ti faccio fare in su e in giù. Ok, e adesso di seguito guarda in basso, verso il pavimento e poi in alto e pian piano osserva cosa fa e se fa qualcosa il bacino. Fa qualcosa il bacino quando guardi in su e quando guardi in giù. Si sposta indietro. E ovviamente quando guardo in su invece viene spostato in avanti. In avanti. Ok. Continua a farlo e pian piano fallo partire proprio dal bacino il movimento. Fino adesso l'abbiamo fatto partire dalla testa, adesso prova a farlo partire dal bacino, quindi contemporaneamente vai indietro aumentando la curva, la gobba e poi vieni avanti inarcando un po' la schiena e osserva cosa fa la pancia. Si gonfia quando vado in su. Cosa significa si gonfia? Cioè viene spinta in fuori. Ok. Quindi in un certo senso va in avanti come per cadere verso il pavimento. Esatto. Sì. Ok. E viceversa, quando guardo in giù, è come se venisse spinta verso l'esterno, verso la verso parte dietro. Posteriore, sì. Quindi la schiena si arrotonda. Sì. Si incurva, ok. E continua e prova a mettere l'attenzione e proprio fai partire il movimento dal bacino. Non farlo partire dalla testa adesso come prima, ma comincia col bacino e pian piano, se puoi, lascia che tutte le vertebre, quando va indietro, si incurvino. Quindi il corpo in flessione e pian piano, quando col bacino vai avanti, il bacino tira tutte le vertebre e ti estendi e guardi avanti alto e la pancia, l'addome cade verso il pavimento e osserva se nel fare questo respiri o se stai trattenendo il respiro. Ok, se vuoi ti puoi riposare un po'. Posso andare avanti? Ok. Allora, adesso tieni gli occhi fissati avanti nella parete davanti a te e tenendo gli occhi fissi vai col bacino avanti e indietro. Possibilmente respirando, osservando come tieni le spalle, sorridendo. Ok. Primo segno di relazione e spiritualità. E osserva piano piano piano, tenendo gli occhi fissi avanti, come passa il movimento e cosa succede nella schiena, cosa c'è di diverso quando tieni gli occhi fissi avanti. Quando tieni gli occhi fissi, ovviamente anche la testa rimane fissa e il movimento, io lo sento diverso perché arriva fino al collo. Ok. Bene, e adesso continua a farlo, però questa volta quando vai indietro guardi con la testa verso il basso e quando vai col bacino in avanti e la pancia va in fuori, cade come se fosse un pancione verso il pavimento, la testa guarda in alto verso il soffitto fin dove puoi e osserva se c'è ancora qualche cambiamento. E non solo, osserva quali parti si muovono rispetto a prima, se è uguale o un po' diverso. Non solo nell'ampiezza nel guardare in alto, ma anche nelle parti che si muovono. Si muovono di più anche le spalle adesso. Infatti. E forse se ci fai attenzione, anche le clavicole. Ok, adesso fletti la testa e avvicina il mento alla gola. E tenendo il mento flesso vicino alla gola, lentamente dondola col bacino avanti e indietro, flettendo e inarcando la schiena, ma tenendo sempre il mento vicino alla gola. Quindi la parte bassa si estende e si incurva, si flette, ma il collo rimane sempre allungato col mento vicino alla gola. Respirando, osservando come passa il movimento. Adesso, perché di per sé il movimento del mento fermo in basso blocca determinate parti e fa sì che si sblocchino delle altre parti. Viene bloccata la parte superiore delle spalle e clavicole, mentre si è sbloccata di più la parte del bacino. Wow, finalmente qualcuno che sente tanto. Visto che spesso devo dire dove sono e cosa sono le clavicole. Osserva se respiri, osserva il respiro, riposati un attimo. Forse per tempo perché sembra di no, ma le lezioni sedute stancano molto molto di più di quelle slegate e sembra di non fare niente. Però di fatto sono molto tosse. Osserva, visto che sei sdraiata, che cambiamento c'è nell'appoggio rispetto al solito a terra, se ti ricordi. E se poi appoggi i talloni, non lasciarli appoggiare. Nella parte lombare chiaramente è molto più appoggiata Il tavolo. al tavolo. Anche la parte bassa delle gambe, se devo essere sincera, proprio polpaccio e tallone sono più, quasi più pesanti. Certo. Perché facendo questo lavoro, se si sta ben seduti sul bordo, sugli dischi, è cosa che mi sono dimenticata di dire bene prima. Quindi stai seduta sul bordo appoggiandoti sugli ischi e trovando una specie di punto neutro. Seduta con piedi e ginocchia allargati come il bacino e i talloni sotto la perpendicolare che scendono dalle ginocchia, distribuisci il peso proprio sui piedi. Cosa che non si fa, se vuoi dopo puoi provare, quando stai seduta su una seggiola e stai seduta sulla seggiola fino a metà coscia. Perché se stai seduta fino a metà coscia non scarichi il peso sui piedi e nemmeno bene sugli ischi, sei in area di mezzo e quindi la schiena rimane in tensione. Io non ti dico niente, ti alzi tu quando vuoi. Perfetto, di nuovo seduta sul bordo, sugli ischi, cerca di vedere se trovi il cosiddetto punto neutro, e il punto neutro è seduti sugli ischi, però prova a vedere, prova ad andare indietro degli ischi e prova ad andare al davanti degli ischi, e è una specie di via di mezzo tra le due, sopra la quale stai seduta, e questa via di mezzo fa sì che gli ischi e il bacino siano proprio il supporto per tenere su la schiena. E quindi i muscoli, sia anteriori che posteriori della schiena, non lavorano né di più davanti né di più dietro, ma sono bilanciati. E osserva se sei seduta dritta o se la parte lombare è arcata. Molto spesso le persone pensano di essere sedute dritte, però stanno con una lordosa accentuata. Ok, e adesso di nuovo guarda verso il basso e muovi tutto il corpo, e poi verso l'alto e fai la stessa cosa. Osserva come passa il movimento, ti accorgerai, prova a fare attenzione anche ai piedi, a come appoggiano a terra. Se sei seduta bene sul bordo, sugli ischi, proprio distribuisci il peso per terra. È più fluido. Come? È più fluido di più fluido. Bene, adesso metti una mano, quella che vuoi, con il dito medio e il pollice, uno sotto una clavicola e uno sotto l'altra, in modo da spingere con le dita le clavicole verso l'alto quando guardi il soffitto. E lasci cadere la pancia verso il pavimento. E poi lasci che la testa si fletta e incurvi la schiena e ovviamente lasci andare la spinta. Quindi ogni volta tieni la mano lì sotto le clavicole, in modo dalla parte inferiore delle clavicole, che quando guardi in su ti puoi aiutare spingendo con le dita verso le clavicole, verso l'alto, e osserva cosa succede nella schiena, nel torace, se aggiungi questo movimento con le mani e le dita, con la mano, scusa. Aumenta l'estensione. Aumenta l'estensione. Infatti, a volte, quando ci sono persone che stanno curve e sono sedute o sdraiate, per aiutarle a stare più dritte, basta mettere le due mani sotto le due clavicole e spingerle un po' in su, che queste già hanno l'input nel sistema nervoso di estendersi. E osserva se lasci cadere anche l'addome, la pancia verso il basso mentre spingi le clavicole in alto. E poi come si incurva la colonna vertebrale quando lasci andare. Un'altra cosa che potresti aggiungere è quando incurvi la schiena e guardi verso il basso, notare se c'è una parte della schiena che spingi più indietro, come che fa una gobba maggiore, o se riesci a vedere come la percezione di incurvarti in modo armonioso, fare la gobba, con tutte le vertebre. Ci sono persone che vanno molto più indietro, con la zona bassa tra le scapole, e altre con la parte del collo quando vanno in giù. Quindi osserva se invece quando ti incurvi, quando ti anche spingi in su con la mano le clavicole, e osserva se quando ti incurvi puoi fare come arrotolare, come se fosse una piccola catena, dei dadi snodati, le vertebre una dopo l'altra. E osserva se respiri e se riesci a lasciare le spalle morbide verso il basso. Sì, riesco abbastanza a incurvare, quando guardo verso il basso, a incurvare la schiena in modo armonico. Si vede, infatti. Ok, riposa un po' come vuoi, seduta o sdraiata, come ti va meglio. Dietro nella parte, lo so, perché si lavora molto, cioè sembra di no, ma si lavora tantissimo, per quello dico ogni tanto appoggiate la schiena o sdraiatevi, perché veramente stanca. Ci sono persone che il giorno dopo sentono un po' di fastidio. Senti che adesso seduta indietro, è come se fossi seduta su una seggiola indietro, e quindi il sedile ti arriva fino più o meno al ginocchio, alla coscia, vedi che non distribuisce il peso sui piedi? No, infatti, è anche che sento ben appoggiata. Così, molto pesante. Vai, di nuovo seduta sul bordo, e questa volta metti le mani a destra, sulla coscia destra, ok, e adesso molto lentamente incurva la schiena ed estendila, osservando da che parte porti il peso, sia a destra o a sinistra o al centro. Quindi girati verso destra e inarca e incurva la schiena girata da questa parte. Il peso a destra. Il peso a destra, ok. Perfetto. E man mano che lo fai, fai lo stesso lavoro che hai fatto quando eri al centro. Quindi, quando guardi in giù, incurvi la schiena, e quando guardi in su, lascia andare avanti e in fuori la pancia, l'addome, portando il peso sull'ischio destro. respira. Perfetto. Quando guardi in su, porta il peso sull'ischio destro, lascia che l'addome caschi in avanti verso il pavimento. Perfetto, ti riposi un po' e poi facciamo la stessa cosa a sinistra. Gli uccellini ci fanno compagnia. Bene, seduta ancora sul bordo, poggi le mani sulla coscia sinistra e adesso ti giri un po' a sinistra e anche da questa parte guardi verso il basso, incurvi la schiena oppure l'altro lo stesso e poi verso l'alto e inarchi la schiena. Peso sull'anca sinistra. Piano, piano, piano, piano, tutto il corpo si muove e si apre e si chiude millimetro per millimetro, tutto alla stessa ampiezza, non una parte di più, non una di meno, non una parte più indietro rispetto alle altre. E osserva se respiri, come tieni la bocca. Ti riposa un po'. E visto che ti sei svegliata, osserva come appoggi, come sono adesso gli appoggi. Molto pesanti dalla vita in giù. E anche le scapole comunque. Sì? Appoggiate, sì. Sì. E le spalle e il collo? Ho sempre questa spalla in avanti rispetto alla sinistra. Il collo ma di testa. Il collo c'è. C'è. Poi, di nuovo, ti siedi ed ora ti giri verso destra, appoggi le mani sulla coscia destra. E questa volta unisci questi movimenti, allora mani sulla coscia destra, guarda in alto ed estendi la schiena e lascia fare il movimento, passi fino ad arrivare al bacino. Poi quando guardi in basso vai al centro, porta il peso su tutti e due gli ischi e incurva la schiena e guarda con la testa in basso. Quando ti estendi la prossima volta, gira a sinistra, poggia le mani sulla coscia sinistra e guarda in alto, ruotata a sinistra. Quindi abbini il movimento di flesso estensione alla torsione. Quando guardi in basso, sei al centro. Osserva come tieni la bocca, se stai respirando, come si muovono le clavicole, lo sterno, le costole. Movimenti molto piccoli, chiaramente. Certo. Però si muove. Eppure si muove. E osserva da che parte porti il peso quando ti giri verso destra. E guarda in alto. E poi ti fletti avanti, sei al centro. Poi ti gira a sinistra e guarda in alto. Se porto il peso a sinistra, quando mi giro a sinistra e guardo in alto, e invece verso la destra, mi sposto su due ischi. Quando? E a sinistra quando guardo a sinistra e a destra quando guardo a destra. Ah, ok. E quando sei al centro? E lo sposto più verso dietro? Dietro. Su entrambi? Sì. E osserva se tieni sempre tutta la pianta del piede appoggiata a terra, senza spostare il peso sul bordo interno, esterno, senza sollevare i talloni. E ti fermi, ti riposi un po'. Ed ora ritorna seduta sul bordo, piedi larghi con il bacino, le cosce devono essere parallele a terra, quindi se tu dovessi farlo a casa e le ginocchia sono più in basso, metti dei libri, una coperta, qualcosa sotto i piedi. E adesso di nuovo fai il primo movimento che consisteva nel guardare verso il soffitto e osservare fin dove riesce a vedere. Molto più indietro di prima. No, non guardare in basso adesso, davanti, guarda in alto ed osserva cosa fa tutta la colonna vertebrale dalla testa al bacino incluso. Cosa succede nell'addome quando guardi verso l'alto? Se ti ricordi di permettere anche alle clavicole di muoversi come abbiamo fatto prima con le mani. Allora la colonna si muove tutta, nel senso che sento proprio fino alla zona lombare e fino al collo, dal collo alla lombare. La pancia automaticamente, come alzo la testa, viene in avanti. Testa in avanti e le clavicole si alzano con le spalle. Non tantissimo. Beh certo, non è che... Ok, riposa un po'. Facciamo un'altra mini sequenza.